La rosa purpurea di Franco D'Assisti. Ben ritrovati amici alla Rosa Purpurea, un saluto da Franco D'Assisti, eccoci qua all'ora di cinema settimanale di Radio 24 come ogni weekend a parlare delle novità in sala, dei nuovi film che sono arrivati nei cinema italiani. È stata sicuramente una settimana, un fine settimana dominato in termini almeno mediatici da Nanni Moretti e dal suo nuovo Abemus Papam, che però ovviamente non è l'unico film di questo weekend, ne abbiamo isolati almeno tre che vale la pena vedere, allora andiamo a sentire i titoli di testa. Nanni Moretti psicanalizza il Papa. Nelle sale Habemus Papam, la nuova, attesissima commedia del regista Palma d'Oro. Michel Piccoli nei panni di un insolito pontefice in crisi di identità in cura dal Moretti strizza cervelli. Arriva in Italia Limitless. Il film con Robert De Niro e Bradley Cooper racconta la storia di uno scrittore in crisi depressiva che, grazie ad una pillola magica ma non troppo legale, riesce a diventare un mago della finanza e della letteratura, finché la sostanza non comincia a scarseggiare. Dal 5 maggio al 6 agosto a Palazzo Pepoli di Bologna, la mostra su Roberto Benigni e Nicoletta Braschi, un evento che ripercorre la storia di due protagonisti del cinema italiano. Ai nostri microfoni il curatore d'eccezione, il regista Giuseppe Bertolucci. Oh, questi allora i contenuti principali della trasmissione. Cominciamo subito a entrare nel vivo. Parleremo di Moretti nella seconda parte del nostro programma. Sono pronti tanti contenuti speciali, un'intervista che ha realizzato il nostro Boris Sollazzo con Nanni Moretti. E proprio Boris è in collegamento con noi. Ciao! Franco, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora Boris, dicevamo fra poco parliamo con te, anzi con Moretti attraverso la tua voce e le tue domande. Prima però invece volevo chiederti qualcosa di un film che arriva in questa scia dorata della commedia italiana di quest'anno. Anche questa settimana il box office parla di due film italiani nei primi quattro posti, due commedie italiane, entrambe con Paola Cortellesi. Tra l'altro c'è chi dice no e nessuno mi può giudicare, leadership per The Next Three Days con Russell Crowe, ancora una volta sono bastati meno di 1 milione di euro perché è scoppiato il gran caldo e la gente magari ha cominciato ad andarci un po' meno al cinema, ma questa settimana sicuramente con l'arrivo di Moretti ci sarà un ritorno. Però questo per dire che nella settimana, nel periodo d'oro della commedia italiana, arriva un'altra che tra l'altro mette in scena in questo che sembra essere il momento della sua iniziale maturità artistica, una showgirl come Belen Rodriguez, che mi pare abbia fatto tutt'altro che una pessima figura in questo film che si intitola Se sei così ti dico sì, di Eugenio Cappuccio, con protagonista Emilio Solfrizzi. Sei d'accordo? Sono d'accordo, anche se va detto che molto del merito è della sua applicazione, ma anche del regista Eugenio Cappuccio e di un grandissimo Emilio Solfrizzi che insomma gli consente di fare una buona figura. Cappuccio riesce a dosarla il giusto, insomma, anche se l'esposizione mediatica un po' in una sorta di metacinema la fa apparire come protagonista. In verità Talita Cortés, il suo personaggio, è una comprimaria, il mattatore reale Emilio Solfrizzi con il suo cantante pop Piero Cicala, che richiama il suo vecchio personaggio Piero Scamarcio, che è costretto a riportare i migliori anni di Carlo Conti, trasmissione della RAI, Io, te e il mare, finta hit del 1981, un po' come si faceva in Music and Lyrics, però divertentissima, straordinaria, insomma, già è diventata un hit vera, nonostante sia stata inventata solo per il film. Assolutamente, che era quello che accadde l'anno scorso a Checco Zalone con i brani del suo film, no? Erano diventati durante l'estate delle straordinarie hit. Ecco, c'è anche un po', mi sembra di capire, il tema appunto di questa Italia musicale un po' demodé ormai degli anni Ottanta, che tenta una strada, una seconda chance. Sì, c'è il cinismo anche della TV nel cercare nella decadenza di miti passati un motivo, diciamo, anche di derisione, e in questo senso la figura di Piero Cicala, quest'uomo che insomma ha nascosto il tipo pop che fu sotto chili di Adip, una calvizia incipiente, è impietosa. Devo dire che il film non riesce purtroppo ad andare oltre il soggetto interessante, cioè questa, più che è nata una stella, è morta una stella e sta per rinascere, anche grazie insomma all'esposizione mediatica di questa diva che non sa fare niente ma è bellissima. e perde molto del talento di Cappuccio, che rimane un ottimo regista in 4-5 scene, si vede, e di Orson Fritz è assolutamente in stato di grazia, che davvero vale da solo il prezzo del biglietto insieme, perdonami se lo dico, a alcune inquadrature statuarie di Belen Rodriguez che Cappuccio concede al pubblico. Al di là di questo, la storia viene molto diluita, il film purtroppo è un film non riuscito, nonostante le performance soliste siano ottime, insomma, facendo un paragone musicale, è una band in cui tutti suonano bene e anche il cantante è bravissimo, ma nel globale non riescono a farlo contemporaneamente, quindi ne esce fuori una cacofonia. Allora, sei perdonato per quanto riguarda le inquadrature statuarie di Belen Rodriguez. Io voglio ricordare anche che escono in questo fine settimana altri due film che voglio segnalare, anche se non avremo il tempo di approfondirli. Uno è Scream 4, perché comunque le saghe horror firmate da Wes Craven vanno sempre seguite con attenzione. L'altro è invece Rio, una straordinaria storia di un pappagallo che vuole tornare nella sua foresta amazzonica. Di questa abbiamo isolato un trailer, sentiamolo. Il tuo macao è un uccello molto speciale. Davvero? Lui non sa nemmeno volare. Non preoccuparti, gli istinti naturali prevalgono sempre. Blu non è come gli altri. Quasi sempre. Infatti, è un pappagallo unico. Lei sta in Brasile. Blu deve venire al Rio de Janeiro. In Brasile? Benvenuto! Sei qui per il carnevale? No, in verità sono qui per conoscere una femmina. Un piccolo consiglio: le femmine brasiliane sono attratte dai maschi audaci. Oh. Insomma, non c'è magari tanto di nuovissimo nella fuga da un luogo che in questo caso è il Minnesota per arrivare ai paesi di origini, pensate a tutti gli zoo in fuga, eccetera, ma c'è certo la novità del pappagallo, c'è la novità dell'ambientazione brasiliana, del pan di zucchero, eccetera, che sono sempre molto suggestive. Questo è Rio, tra l'altro cartoon animazione, anzi, perdonatemi, in 3D. Allora, grazie a Boris Sollazzo che ci ha raccontato Se sei così ti dico sì. Fra poco lo ritroveremo, autore delle domande dell'intervista a Nanni Moretti. Ciao Boris. Ciao, grazie a te Franco. La Rosa Purpurea. Di nuovo insieme alla Rosa Purpurea, sulle note della musica, della colonna sonora di Habemus Papam, per parlare finalmente del nuovo film di Nanni Moretti, uno dei film più attesi, più celati della stagione cinematografica italiana. Come sempre nelle opere di Moretti se ne è saputo poco, pochissimo, fino a quando non è stato svelato nella contemporanea e simultanea proiezione stampa a Roma e Milano il 14 di aprile. E allora entriamo nelle atmosfere di questo Habemus Papam di Nanni Moretti. Morto un papa, se ne fa un altro, si sa, è la storia, oltre che il detto, e alla morte del pontefice i cardinali si chiudono in conclave. I volti che governano le chiese di tutto il mondo sfilano sotto il colonnato del Bernini. Partono le elezioni, prima un nome, poi un altro, mai quello decisivo. In conclave, si sa, i prelati non possono avere contatti con l'esterno e mentre all'interno della Cappella Sistina ognuno prega chiedendo a Dio di non scegliere lui, scena bellissima, fuori il popolo di Piazza San Pietro attende fiducioso. Ed ecco la fumata bianca, quella che brucia le schede con il nome del cardinale francese Melville, interpretato da Michel Piccoli, il quale era dubbioso fra i dubbiosi e una volta terminata la vestizione viene portato alla soglia della mitica finestra di Piazza San Pietro. Ecco l'annuncio. Nunzio vobis, gaudium magnum, habemus papa, eminentissimum, ac reverendissimum. Il cardinale Melville, lo sentite, non ce la fa, non si sente pronto. Il suo urlo lacerante squarcia le stanze vaticane. Poi Melville si alza e si ritira nel suo appartamento. Il papa c'è, ma per ora non si vede. Il conclave ha dato il suo esito, ma non può considerarsi concluso. Nessuno può entrare e nessuno può uscire dal Vaticano, col sommo pontefice in piena crisi, non di fede, ma personale. Il peso della responsabilità spirituale di un miliardo di persone lo schiaccia. A tentare di sbrogliare l'intricata matassa viene chiamato uno psicanalista, il più bravo che c'è, ovviamente interpretato da Nanni Moretti. Dobbiamo fare qualcosa subito, per questo abbiamo scelto lei, perché lei è il più bravo. Che condanna! Me lo dicono sempre tutti. problemi con la fede. Di questa difficoltà ne ha parlato con qualcuno? No, con nessuno. E che lavoro fa? Cosa faccio? E siccome il più bravo psicanalista non basta, come avete sentito, il Papa in pectore viene portato in incognito dalla seconda più brava, l'ex moglie del più bravo, Margherita Buy. Ma approfittando di una distrazione della scorta, il cardinale Melville fa perdere le proprie tracce e si dilegua per le strade di Roma. Così per 3 giorni, mentre il mondo si chiede se il Papa appena eletto è vivo o morto, mentre tutti quelli che stanno dentro il Vaticano, Moretti compreso, non possono uscirne e si arrabattano fra partite a scopa e mondiali di pallavolo per cardinali, mentre una guardia svizzera viene chiamata a occupare la stanza del Papa e a dare ogni tanto una tiratina alla tenda o far vedere la sua sagoma in controluce, perché i fedeli devono continuare a tenere alta la speranza, mentre va in scena insomma la grande menzogna, il Papa è in giro per la città eterna, prende il tram, si fa trattare bene dalla commessa di un negozio e male da un barista, incontra gli attori di una compagnia che recita Chekhov e il suo cuore si apre a una passione mai sopita. Il cardinale capisce quel che perderebbe accettando di varcare il soglio pontificio, il contatto con la gente, ma anche quello con se stesso, e così prepara il suo sorprendente ritorno in Vaticano. Io non capisco perché non si può fare una squadra solo dell'Italia. No, voi italiani giocate o nella squadra dell'Europa A o nella squadra dell'Europa B, per cortesia. Non mi scardinate questa griglia che ci ho lavorato tutta la notte. E guardate che vi dico, io propenderei addirittura per partite di andata e ritorno. No, andata e ritorno no, moriamo. Abemus Papam è un vero capolavoro. Nanni Moretti firma il suo film più maturo, con meno morettismi, che pure non mancano, costituendo il suo marchio di fabbrica, ma sono limitati al minimo. Così come non preponderante, ma efficace, la presenza del suo personaggio. Moretti fa un passo indietro e si concentra sul racconto di una crisi assai umana. Ci racconta che il teatro e la gente curano le anime, che i cardinali sono eterni bambini che non hanno mai fatto fino in fondo i conti con la vita vera. E lo fa con grande ironia, ma anche con grande rispetto. Non rinunciando alle sue convinzioni, illuminante il dialogo in cui cerca di convincere un cardinale della bontà delle teorie darwiniane, ma senza mettere in dubbio, o peggio in ridicolo, l'istituzione ecclesiale. Moretti accosta i suoi dubbi di laico a quelli di un grande Michel Piccoli, già candidato di diritto a una palma per la recitazione a Cannes, visto che il film fa parte della spedizione italiana per la corsa alla Palma d'Oro, insieme al film di Sorrentino. Sono tutti umani e non di fede i dubbi, come si diceva prima, come si poteva anche pensare in precedenza. Come posso guidare i fedeli se ho ancora bisogno di essere guidato da Dio? Si chiede il cardinale Melville. E tutto questo avviene con lo sguardo del miglior Moretti regista di sempre. Il film è girato benissimo, pieno di inquadrature e scene suggestive. L'irruzione dei cardinali a teatro per riprendersi il loro papa, per esempio, è d'antologia. Il film è della maturità cinematografica, che forse farà nascere qualche polemica in meno fra i media, ma certamente qualche dubbio in più fra gli spettatori. E allora, questo è il racconto, la recensione di Habemus Papam di Nanni Moretti. Fra poco sentiremo le parole del regista che ha incontrato la stampa appunto a Roma. Prima però, piccola parentesi, perché dobbiamo cominciare a giocare con il nostro DVD game, che ogni settimana vi permette di provare a vincere bellissimi film in DVD, purché li indoviniate, perché indoviniate di che film si tratta. Come sempre abbiamo isolato 3 frammenti che rimarranno misteriosi fino alla prossima settimana, quando sveleremo l'arcano. Dovete dirci di che film si tratta, sentiamo il primo. Continuavo a sognare un mondo che pensavo non avrei mai visto. E poi un giorno accadde qualcosa, qualcosa di straordinario. E che cos'era? Te lo dirò un'altra volta. La Rosa Purpurea, @radio24.it. Come sempre mi invito a inserire anche il vostro indirizzo di posta privata, perché questo agevolerà e velocizzerà le operazioni di spedizione. Se avete già indovinato ovviamente di che film si tratta, più tardi ci saranno altre 2 possibilità. E come promesso torniamo a parlare di Habemus Papam, di Nanni Moretti. È arrivato il momento di ascoltare la voce del regista che ha incontrato i giornalisti a Roma. Per noi c'era Boris Sollazzo. Cominciamo subito con il sentire Moretti parlare del grande protagonista di questo film, Michel Piccoli. Ho scelto il protagonista, io ho costruito poi il film attorno a lui, io l'ho diretto, io ci sono stato insieme per molte settimane, però ecco, non si tratta di scoprire quanto fosse bravo, ma l'apporto che i suoi occhi, le sue espressioni, i suoi silenzi, i suoi scatti, le sue parole, l'apporto che hanno dato al film. Ecco, si può parlare di magnetismo di questo attore nei confronti di chi vede il film. Ecco, questa è una cosa bella, importante, perché magari ci sono persone che sono brave come attori, ma insomma non hanno questo magnetismo, non hanno. E poi questa grande, insomma, mi ero accorto, insomma, che lui era entrato bene dentro il film, che ci capivamo quasi al volo, però poi, ripeto, vedendo il film tutto insieme, tutto di seguito, dico, beh, ammappa, ecco. Mi sembra un film più senza rete rispetto agli altri. Se io devo fare un accostamento a Palombella Rossa è un po' per la libertà narrativa, nel senso che qui a un certo punto metto insieme delle cose, delle situazioni, dei sentimenti, dei personaggi apparentemente inconciliabili, molto lontani, eppure li voglio far vivere all'interno dello stesso film. Ecco, e mi sembra che poi questo tentativo sia riuscito, però è un po' presto per dirlo. Diciamo che quella fragilità, quella vulnerabilità, quel senso di inadeguatezza non appartengono solo a quel Papa lì, di questo film, ma io penso che, spero, che toccheranno spettatrici e spettatori per fede, per età, per esperienze molto lontane, diciamo, da questo personaggio e dall'ambiente che racconta il film. Ecco, c'è uno smarrimento, c'è una difficoltà ad andare avanti che penso riguardi tante persone oggi. È inevitabile usare, semplificando, per un film del genere l'aggettivo dissacrante, senza però volergli dare la connotazione, se vogliamo, più ironica, cioè c'è un tentativo di togliere la sacralità. Cioè, molti si stupiscono dell'umanità di questo Papa, ma insomma, io mi stupirei del contrario, insomma, è uno dei 100, 120 cardinali che però improvvisamente diventa Papa. E vabbè, perché non dovrebbe essere umano, fragile, vulnerabile, smarrito? Ecco, quindi mi interessava raccontare quello stato d'animo lì, quel personaggio lì. Per quanto riguarda me, non ho voluto essere didascalico in questo, però insomma, si intuisce che durante il racconto del film ci sia una lotta, insomma, adesso, senza farla troppo lunga, ma insomma una lotta tra la missione che è chiamato a incarnare il Papa e così il senso del suo limite, le sue paure, le sue inadeguatezze. Quindi insomma ho cercato di evitare, appunto, di spiegare troppo, però appunto si avverte che tutto l'arco di questi pochi giorni del film lui spera di farcela, ecco. La gioia di tornare a Cannes, ma è un festival importante perfino negli Stati Uniti, che è molto, perfino per l'industria americana, e in alcune occasioni dà una bella mano al cammino internazionale dei film. Ecco, vediamo che cosa succederà tra un mese. La Rosa Purpurea. Di nuovo insieme alla Rosa Purpurea, terza parte del nostro programma. Questa volta le note che ci accompagnano sono quelle della bellissima colonna sonora di Limitless, il film che vi stiamo per raccontare, action thriller firmato da Neil Burger con Bradley Cooper, Robert De Niro, cast molto importante, film particolarmente azzeccato. Subito il racconto. Eddie Morra, il protagonista di questo film, appunto interpretato da Bradley Cooper, è uno scrittore in crisi. Il talento certo non gli manca, ma le pagine del suo nuovo romanzo rimangono inesorabilmente bianche. Un giorno, in un bar di New York, viene a trovarlo il suo ex cognato, Vernon. Da anni non si incontravano, da quando Eddie aveva visto andare in frantumi il breve matrimonio con sua sorella Melissa. Ma quel giorno Vernon ha con sé una sorpresa, qualcosa che può rendere Eddie davvero senza limiti. Creatività bloccata. Sì. Beh, penso di essere in grado di darti una mano. Almeno per una volta. Oh, no. Non sai nemmeno che cos'è. Spacci ancora, eh? Fratello, io ormai ne sono lontano anni luce. Più semplicemente faccio delle consulenze per una società farmaceutica. Tipo qualche laboratorio che produce Viagra finto, dai, Vernon. No. Questo è un prodotto esclusivo che verrà commercializzato il prossimo anno. La sperimentazione è già fatta e il farmaco è già approvato. D'accordo, è soltanto una curiosità e nient'altro. Mm-hmm. Vediamo. Che cos'è? Hanno individuato dei ricettori nel cervello che attivano specifici circuiti. Hai sentito la storia del fatto che usiamo solo il 20% del cervello? Questa cosina qui ti dà accesso a tutto quello che non usi. Insomma, Eddie assume la pillola trasparente, grossa come il bottone di un polsino di una camicia, e dopo pochi secondi gli sembra di essere catapultato in un mondo parallelo. Niente sballo, niente allucinazioni. Al contrario, l'NZT, come si chiama questa sostanza sintetica, rende tutto più nitido. Suoni, parole, voci di una vita tornano immediatamente disponibili al cervello di Eddie, che sa sempre esattamente cosa fare e come farlo, magari pescando in meandri della sua memoria davvero reconditi. Dopo qualche ora l'effetto svanisce, ma i risultati rimangono. Eddie torna da Vernon per un'altra fornitura, ma lo trova piuttosto malconcio. Vern, che è successo? Lascia perdere, sto bene. Quindi, Eddie, la cosa ti interessa, devo intuire. È roba stratosferica. Se sei già uno intelligente, funziona meglio. Vernon, chi ti ha ridotto così? Credimi, meglio non saperlo. Ah. Allora, com'è che si chiama? Non ha un nome ufficiale, ma i maghi in cucina la chiamano NZT48. I maghi in cucina? Cioè, non suona tanto come un farmaco approvato, Vern? Dai, quale approvazione? Era per ridere. Non avrei creduto a quella stronzata. Uscito a fare una commissione per Vernon, al suo ritorno Eddie trova la casa stranamente silenziosa, totalmente ribaltata, e con Vernon lì, riverso sul divano con un buco di pallottola al centro della fronte. Prima dell'arrivo della polizia, Eddie conclude la perquisizione e trova il tesoro, centinaia di pillole di NZT che Vernon nascondeva nel forno. La strada per il successo è spianata. Eddie finisce il suo romanzo in una notte, ma non è così che gli interessa utilizzare le sue nuove risorse mentali. Per fare soldi servono soldi, ed ecco che, fattosi prestare un gruzzolo da una banda di usurai dell'est, lo moltiplica a dismisura, azzeccando le più improbabili previsioni finanziarie, fino a diventare un nome a Wall Street che attira anche i poteri forti. Nello specifico, il magnate della finanza Carl Van Loon, interpretato da Robert De Niro, che nonostante una diffidenza epidermica per il giovanotto rampante, gli affida il compito, molto ben retribuito, di guidare la più grande fusione fra due società quotate a Wall Street, non prima di avergli ricordato che la gavetta conta ancora qualcosa. Beh, se voglio costruire la mia carriera, devo sapere anche passare oltre. Il solo fatto che lo pensi è la dimostrazione per me che non sei pronto a fare da solo. Tu sei uno scherzo della natura. Le tue capacità sono solo un dono di Dio, o fortuna, o uno schizzo di sperma, o la svista di chi ha scritto il copione della tua vita. Non le hai guadagnate. Tu non sai quello che so io, perché non le hai guadagnate, quelle capacità. Ci ucciderai con quelle capacità. Le sfoggi e le spargi qua là come un marmocchio col suo fondo fiduciario. Non hai scalato uno per uno quei piccoli gradini scivolosi. Non ti sei annoiata a morte alle raccolte fondi. Non hai fatto quel primo matrimonio con la ragazza del padre giusto. Tu pensi di scavalcare tutto con un balzo. Non hai dovuto blandire, minacciare, corrompere per sederti a quel tavolo. Tu non sai valutare bene il tuo nemico perché non hai mai combattuto. Non fare di me il tuo nemico. Ti aprirò subito una linea di credito. Vorrai toglierti qualche capriccio? Ma proprio sul più bello, le pillole di NZT cominciano a scarseggiare, i potenzialmente letali effetti collaterali cominciano a manifestarsi, polizie e usurai sono alle calcagne di Eddie, per il quale il grosso dei guai è appena cominciato. My name should be Veramente divertente, divertente adrenalinico questo film firmato da Neil Burger, che aveva già diretto The Illusionist qualche anno fa, e scritto da Leslie Dixon, a cui dobbiamo il copione del musical Hairspray. Il film si apre con un virtuosismo tecnico che lascia lo spettatore a bocca aperta, una sorta di camera car che attraversa Manhattan ad alta velocità, penetrando nei corpi, le macchine, i muri, che poi altro non sono che l'anima della grande mela. E il film scuote lo spettatore di continuo, facendo sentire parte delle mirabilie che succedono nel cervello del protagonista, con l'uso di colori saturi e brillanti. Non c'è un attimo di tregua, e lo stesso assunto di partenza è di grande suggestione. Cosa potremmo fare se usassimo più del 20% del nostro cervello? Ma ogni alterazione si porta dietro le sue dipendenze, quelle che mettono Eddie a tu per tu con gli apici del successo e l'abisso della morte. Bene Bradley Cooper, che dopo Una notte da leoni era certo l'attore giusto per questo ruolo. Benissimo un Robert De Niro, che non vedevamo da tempo a questi livelli. Defilate le presenze femminili sulle quali spicca la nuova bellissima di Hollywood, Abby Cornish. Limitless è un esempio di prodotto medio non stereotipato che mischia i generi per reinventarne uno nuovo. Proprio il cinema in grado di far uscire la macchina produttiva di Hollywood dalla sua più grande crisi creativa. E a questo punto andiamo a giocare, dopo aver parlato di Limitless nei cinema italiani da questo fine settimana, andiamo a giocare nuovamente con il nostro DVD Game, a provare ad indovinare di che film si tratta. Sentiamo la seconda traccia. Due notti prima di sparire, tuo padre venne a casa mia. Mi annunciò cambiamenti radicali, scienza, medicina, religione. Non avrebbe mai abbandonato tutto, Sam. Non avrebbe mai abbandonato te. La Rosa Purpurea @radio24.it. Più tardi ci sarà l'ultima possibilità per provare a vincere il Blu-ray di questo film. E a questo punto invece vogliamo parlarvi di una mostra. Lasciamo la strada delle novità al cinema. Abbiamo come sempre fatto risaltare, raccontato e approfondito quelle più importanti secondo ovviamente il nostro giudizio, e andiamo a parlare di una mostra, perché diventano oggetto di una mostra, diventeranno, perché ancora questa mostra non è stata inaugurata, lo sarà dal 5 maggio al 6 agosto a Palazzo Pepoli di Bologna, niente meno che una coppia del cinema che è stata anche sempre una coppia della vita, ovvero Roberto Benigni e Nicoletta Braschi. E infatti proprio Bob e Nico è il titolo di questa mostra, che è davvero molto originale, molto particolare almeno, curata tra l'altro da un grande nome del cinema italiano come quello di Giuseppe Bertolucci. E allora noi abbiamo mandato così in anteprima a dare un'occhiata a quel che sarà in questa mostra bolognese alla nostra inviata Chiara Pizzimenti. Comincia il gioco, chi c'è c'è, chi non c'è non c'è. Ihr seid nur aus einem einzigen Grund in dieses Lager transportiert worden. Si vince a 1000 punti, il primo classificato vince un carro armato, vero? Beato lui! Roberto Benigni traduce, a modo suo, gli ordini dei soldati tedeschi all'interno del lager. È la scena della Vita è bella proiettata sulla volta di una stanza di Palazzo Pepoli, dimora storica nel centro di Bologna, una stanza in cui è ricostruito quel lager per una mostra, Bob e Nico, una mostra che racconta l'avventura umana e artistica della coppia Roberto Benigni e Nicoletta Braschi e insieme gli ultimi 30 anni dell'Italia. Benigni, non ti sembra di esagerare un po'? Eh? Dove ti sei seduto? Esageri, eh? Sì. Esageri un po'. Dagli esordi al Papocchio di Arbore, dai maestri, Dante su tutti, alla TV, dai grandi incassi, Piccolo Diavolo, Gianni Stecchino, alle incursioni nella politica. Poi il comunismo viene da sé anche senza Berlinguer. Il comunismo è come prima di farsi la prima sega, che si viene a letto da sé, si fa, Dio buono, cosa mi è successo? Nelle stanze dell'intero piano nobile saranno proiettati dal 4 maggio al 6 agosto, come quadri e affreschi, 30 anni di film in un allestimento che l'ideatore Giuseppe Bertolucci racconta così. È una mostra sul mostro, volendo parafrasare un titolo di Roberto. Pensando alle mostre si pensa a qualcosa di diverso. Un personaggio vivente, e come vivente, molto vitale anche, voglio dire, del presente, viene raccontato attraverso gli strumenti della riproducibilità tecnica, cioè l'audiovisivo, a cui lui ha dedicato molto della sua carriera e della sua vita. E quindi sì, credo che sia Io ho sempre pensato che fosse una specie di grande trailer questa mostra, di appunto di qualcosa, di una opera omnia dei due nostri amici che messa in sequenza lineare durerebbe 200 ore probabilmente. Quindi noi credo che offriremo al pubblico dei visitatori 50-60 minuti, no, che saranno come delle evocazioni, allusioni di qualcosa di molto più complesso e lungo. Ci saranno poi alla fine della mostra delle postazioni interattive, che chiamiamole una sorta di jukebox, come, dove il visitatore potrà fermarsi e avrà una grande offerta di sequenze, no, dai loro film e dai programmi televisivi, quindi potrà anche andare a pescare cose che la mostra non mostra appunto immediatamente. Come nasce la mostra? Di chi è l'idea? L'iniziativa, il desiderio è di Roberto e di Nicoletta, che volevano fare qualcosa a favore di questo meraviglioso istituto di ricerca sui tumori che è a Meldole e a Forlì, e quindi hanno proposto a noi di occuparci della cosa, e poi io e Giancarlo Basili abbiamo pensato al modo di raccontare queste carriere, e la Cineteca ha realizzato, ha prodotto e sta producendo la mostra. Bob e Nico sono due nomignoli, nomi familiari, nomi degli amici. Il modo in cui vengono chiamati dagli amici. E noi li vediamo così nella mostra, che Benigni e che Braschi vediamo? Vediamo, in realtà sono le tracce che hanno lasciato in testimonianze più pubbliche, perché sono i loro film, le loro serate, non c'è molto del privato, diciamo, non... Quello starà a voi scovarlo, se siete bravi. C'è però del suo lavoro con Roberto Benigni. Sì, quello è. Io sono nato praticamente con Roberto, siamo nati insieme con un monologo iniziale che si chiamava Cioni Mario, e poi col primo nostro film che era Berlinguer ti voglio bene. E avevo in qualche modo qualche strumento di navigazione per poter navigare dentro quest'opera. Le posso fare una domanda che è più personale? Sì. La Palma d'Oro che è arrivata, come è stata accolta la notizia? A mio fratello? Sì. Mi sembra fosse giusto, sia un tributo giusto. Bernardo è stato anche mio maestro al cinema, quindi insomma sono contento. E allora questa era la nostra Chiara Pizzimenti con Giuseppe Bertolucci, curatore della mostra Bob e Nico a Bologna dal 5 maggio al 6 agosto, per saperne di più del mondo di Roberto Benigni. La Rosa Purpurea. Eccoci ancora insieme, la quarta parte del nostro programma, come sempre dedicata ai film da vedere a casa, magari attraverso la TV, attraverso l'home video, attraverso i videoregistratori, i buoni vecchi videoregistratori che ci aiutavano a passare, a evitare le notti insonni per recuperare spesso il cinema migliore. Come sempre insieme agli amici del settimanale Film TV abbiamo dato un'occhiata a quelli che sono i palinsesti della prossima settimana, e stavolta abbiamo fatto una scelta abbastanza originale, di cui ci parla Andrea Fornasiero. Ciao Andrea. Ciao Franco e un saluto agli amici di Radio 24. Oggi, in via del tutto eccezionale, non segnaliamo un film, ma grande cinema e anche grande TV, e forse qualcosa in più di entrambi. Segnaliamo Carlos di Olivier Assayas. Si tratta di una miniserie in tre parti, in onda da giovedì 21 aprile su FX, che purtroppo è un canale a pagamento di Sky, ma non potrebbe essere diversamente perché si tratta di roba forte. Si racconta del terrorista superstar degli anni 70, Illich Ramirez Sanchez, in arte Carlos, ribattezzato dai media come lo sciacallo. Tre parti per un totale di 5 ore e mezza in CinemaScope, troppo sia per il grande sia per il piccolo schermo, e vero evento al Festival di Cannes dello scorso anno. Assayas incalza a tempi di punk rock le imprese di una figura ambigua e controversa, che aspira alla grandezza e contiene marcate contraddizioni. Rimbalza tra le location europee e medio orientali e si ferma in un blocco centrale al Cardiopalma da 50 minuti sul sequestro alla sede OPEC. Un magma anche linguistico, perché la mina è infatti parlata in ben 9 lingue. Protagonista la rivelazione Edgar Ramirez, venezuelano come il personaggio ma duttile e carismatico come il giovane Brando. E allora questa è la segnalazione di Film TV, quindi Carlos, questa miniserie davvero straordinaria di un grande autore del cinema francese contemporaneo come Olivier Assayas. L'appuntamento è dal 21 aprile su FX, canale a pagamento come dicevamo di Sky. Questa è una piccolo strappo alla regola, perché sapete, qui noi alla Rosa Purpurea segnaliamo sempre e solo cose che si possono vedere in chiaro e gratuitamente, però davvero ne valeva la pena perché il tenore cinematografico di questa miniserie è davvero straordinario. Quindi tre puntate, grazie ad Andrea Fornasiero. Grazie Franco, e alla prossima settimana con le segnalazioni di Film TV. E allora andiamo avanti perché c'è da farvi ascoltare la terza traccia del film misterioso di oggi. Se ne stanno andando! Non per scelta! I loro mezzi non possono uscire dalla rete. Andrebbero in avaria su questo terreno. E questo veicolo? Ovviamente no. Ora dove andiamo? Abbi pazienza, Sam Flynn. Avrai presto tutte le risposte che cerchi. La Rosa Purpurea @radio24.it per provare a vincere il Blu-ray di questo film. Come sempre in palio il disco, appunto, il Blu-ray in questo caso ad alta definizione per il più bravo e veloce del sabato e della domenica. Andiamo indietro a 7 giorni fa. Domenica scorsa non abbiamo giocato perché c'era la puntata speciale in diretta dal Vinitaly, ma sabato invece sì, e avevamo fatto sentire questa traccia. Grazie tante. Ma prego. Lei è stato molto gentile. Io non ho parole per ringraziarla. Che le dice manca per lì. Ha indovinato un solo preparatissimo ascoltatore, Gianni Ansaldi di Genova, che riceverà il Blu-ray, edizione restaurata ad alta definizione, di Miracolo a Milano, che era il film con cui abbiamo giocato sabato scorso e che ci facciamo spiegare nei suoi contenuti dal nostro Claudio Pofi. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto agli amici in ascolto. Sì, nonostante gli anni, devo dire che insomma, la pellicola restaurata si presenta veramente in ottima forma ed è sicuramente visionabile al meglio delle possibilità grazie a questa, a mio avviso, impensabile edizione in alta definizione. Quindi c'è questo bianco e nero notevole, una buona scala di grigi e insomma, accettabili le due tracce audio originali, qualcosina meglio la DTS ad alta risoluzione. Per gli extra ci sono le immagini, della prima trailer e soprattutto interviste a Manuel De Sica e Brunella Bovo. E questo quindi per quanto riguarda il Blu-ray di Miracolo a Milano, straordinario capolavoro presentato tra l'altro proprio nell'autunno scorso in una proiezione speciale a Milano al piccolo teatro Strehler nella sua versione restaurata, la presenza di Manuel De Sica, insomma è stato un lavoro di cui deve essere chiaramente orgoglioso tutto il cinema italiano e speriamo che chiaramente proseguano questi lavori che permettano di poter fruire poi non solo in un video ma anche al cinema in proiezioni speciali, soprattutto per i più giovani, di questi capolavori straordinari del nostro cinema. Noi qui quello che possiamo promettervi è che continueremo a giocare con questi straordinari film dell'epoca del dopoguerra appunto italiano. E invece ci spostiamo su zone non troppo recenti, ma insomma più recenti di Miracolo a Milano. C'erano film mitologici che negli anni 70-80 imperavano ed erano diventati quasi un modo di essere, sicuramente un modo di dire. Uno di questi era Excalibur. Volete un bastardo come re? Lord Lodegrans, unisciti a noi contro il ragazzo. Io ho visto ciò che ho visto. Il ragazzo ha estratto la spada. Se un ragazzo è il predestinato, un ragazzo sarà re. No, in questo momento la spada è stata tratta. Capolavoro di John Boorman che a inizio anni 80 rievocava la leggenda di Re Artù che estrae la spada magica Excalibur appunto conficcata in una roccia diventando re unificando un'Inghilterra dilaniata dalla guerra a cui seguirà naturalmente questa intensa ed epica epopea dei cavalieri della tavola rotonda sino alla ricerca del Santo Graal. L'uscita Blu-ray alta definizione da parte di Warner Home Video palesa una qualità in parte superiore al DVD, c'è questa vistosa grana e sicuramente una difficile cinematografia che respira di più proprio grazie al Blu-ray, formato video tra l'altro prossimo all'originale con minime differenze, c'è questo audio in inglese DTS ad alta risoluzione, una traccia Dolby Digital, due canali per l'italiano che è abbastanza modesta, per gli extra c'è molto interessante il commento del regista ma purtroppo non è sottotitolato. E noi andiamo avanti con un altro salto indietro, torniamo alle epoche di Miracolo a Milano, quando però su altre latitudini si facevano altri film, parliamo del 1945, di un film di David Lean, un vero e proprio capolavoro misconosciuto, si intitola Breve Incontro. Ma appena fuori sul marciapiede... Buongiorno! Oh, buongiorno! Come sta l'occhio? Benissimo, grazie, fu davvero gentile a volervi aiutare. Non ne parli neanche, sta schiarendo mi sembra. Sì, si mette al bello. Beh, devo proprio recarmi all'ospedale. Io devo finire le mie commissioni. Vite romanzesche le nostre. Arrivederci. Laura fa la casalinga, Alec il medico, gli incontri casuali, una serie di eventi li fanno rivedere, ma palesano una frequentazione difficile in cui i sentimenti sono perennemente appesi a una sorta di filo di lana che dopo essersi spezzato farà però sentire loro la reciproca mancanza. sospeso tra sogni e realtà. Il film è un intimo racconto di un amore funestato dalle casualità del vivere quotidiano che lo rende irrealizzabile. Sensibile alla regia del maestro David Lean, che lo realizzò nel 1945. Il DVD è interessante, la qualità è notevole, anche perché c'è stato anche in questo caso un restauro molto buono, c'è una doppia traccia monofonica in italiano e inglese, entrambi di dignitosa resa. Tra gli extra segnaliamo un approfondimento del critico Vieri Razzini sul film. Un film davvero straordinario, tra l'altro tratto da un atto unico, che è appunto Still Life, e che ricorda, se vogliamo, quelle che sono state le atmosfere poi rilanciate 50 anni dopo da Wong Kar-wai in The Mood for Love, un rapporto che non si consuma, che si ferma alla soglia dell'adulterio. Questo è Breve Incontro, grazie a Claudio Pofi. Ciao, a presto. E con questo è tutto, noi abbiamo chiuso anche la nostra puntata di questa settimana, di questo weekend della Rosa Purpura. L'appuntamento va come sempre alla prossima settimana, al prossimo fine settimana, il sabato alle 18, la domenica alle 15, per vedere anche come sarà andata la volata di questo fine settimana e per vedere se il fresco partecipante a Cannes, Abemus Papam di Nanni Moretti, sarà riuscito a conquistare un film d'autore italiano, sarà riuscito a conquistare la vetta della classifica nel weekend e nel periodo della commedia. Insomma, chissà se c'è spazio anche per il grande pubblico, noi siamo convinti di sì, per un film d'autore come quello di Moretti. Ne parleremo la prossima settimana qui la Rosa Purpura. Grazie per averci seguito, un saluto da Franco D'Assisi.